Hola. Chi è, va? Signor Gianni, buonasera. Ah, dottore, beh. Non me ne rilassadono. Esatto, non ti ho capito. Perché non me ne hanno lasciato di bene. E appunto, di interessante avere la salute. Insomma, io sono in viaggio. E mi basta. E sempre stare bene, da voi. Ma ci beccare di là. Siete? Vabbè, andiamo bene, andiamo. Oh, se viene il biglietto, se non viene il biglietto, aiuto. Che ne so andare avanti. No. Ogni primo o secondo due mesi. Che biglio. No, ma lo sai cosa stavano dicendo? Non lo so se è una fica. Su internet che adesso l'INPS paga quando gli arrivano i soldi, perché non li anticipa più. Io li ho sempre versati a loro, e loro me la devono pagare. Chietta, ogni primo del mese me li devono pagare. Adesso per dire a me 7.30 mi devono rimborsare 1.500 euro del 7.30. Non l'ha già ancora visto io. E ho chiesto al CAF e mi ha detto che se la stanno prendendo con calma. Sì, quelli sono soldi che deve rimborsare il governo, quindi se a loro non li rimborsa il governo non li anticipano più loro. E né quello, né la disoccupazione, né la LASPI, tutte queste cose qua dice che non le anticipano più. Sì, quello era uscito da parecchio, però era uscito. Le barie roba di 7-8 mesi. E vabbè, ma c'è un avvocato che parla sempre delle pensioni, non so se lo vedi su internet, io lo vedo su TikTok, pure su Facebook, ce ne sono due o tre di avvocati che parlano di queste cose, sono interessanti. Io lo so, sì, di quello già fa tranquillo che sono... Però... di quelle cose lì ormai è il governo che dovrebbe anticipare prima per quello, anche il governo si ne ha fatto un bel di voce, si fa di basta 7-8 mesi, ti ridà sicuro pure in Parigi, no, la qui arrivedi. Vabbè, sì, ma se uno li servono subito, cosa aspetta, che ti dà di farti qualità? Aspetta, a me 2000 euro ci sono passati 10 anni, ci sono passati, e me la dà a 200 la volta. Però ma la dolce, quando rimoniesi mi dà tutti una busta, io gli ho dato 4.700 euro perché praticamente mi stavano pagando la pensione quando io stavo ancora lavorando, era superato il reddito, però me lo vale di tutta. Quindi io ho dovuto pagare tutto insieme. Sì. Grazie. Quello sì. Non ti dicono nulla loro, no. Si gagliano i muti, ecco cosa è. Ci stanno zitti e tu paghi, continui a pagare, però da voi non te ne dorrano. Ma scusa un pochettino, se non te li possono dare, non te li devono dare dall'inizio e basta. Cosa stanno? Andateli qui a riprenderti per una volta, usci a rileggere i ribassoni. Infatti, ma è il governo che è lungo a pagare all'Inpis, è compreso, è lungo il governo, passa con quanto li devi da all'Inpis il governo. Ma stanno tardando in tutto, anche le modellisee stanno tardando e praticamente mi stavano dicendo al CAP che praticamente se uno è invalido tarda di più ad averlo, gli altri li fanno avere subito, invece se uno è invalido fanno gli accertamenti. Sono gli stessi, anche mia figlia hanno tardato a dargli e gli hanno dati, mi sembra avanti ieri gliel'hanno dato. Ma prima in una settimana allora io andavo al capo, facevo tutto, poi mi diceva, mi faceva pagare, e poi anche quello è sbagliato perché su internet l'avvocato ha detto che non devono pretendere per l'ISEE manco 5 lire e invece si fanno pagare 10 euro pagati, non sarà chissà quanto, però sono pagati. Sì, ma dopo ce li hai insieme a quelli che ce li fanno dare, ce li hai, ecco cosa è, solo te li mettono in mezzo, però paghi in anticipo tu. No, no, non ti muore in nulla, no, quelli sono soldi che si tiene il capo. Allora il CAP è pagato dall'INPS, è pagato dall'INPS e in più chiedono i soldi, che è sbagliato, non dovrebbero chiedere nulla, dovrebbe essere gratis totalmente, a quanto ha detto questo avvocato qua. Non dovrebbero chiedere nulla, ma te li chiedono. Però bisogna vedere che CAP è anche, hai compreso? Non sono tutti che te li chiedono. A te non te li chiedono. A me no, per farmi il 7.30 mi richiedono, però per fare il GE e coso no, non me l'hanno mai chiesto. Infatti ci ho portato mia figlia e gliel'ho fatto fare e gliel'hanno fatto gratis. Sì, ma deve essere, non è gratis, ma loro sono pagati dall'INPS per fare il 7.30, il modello GE, queste cose, sono pagati dall'INPS. Deve essere, non gli bastano i soldi che gli danno e vogliono arrotondare. No, a me mi chiedono 25 euro per farmi il 7.30, mi chiedono, però tutto il resto me lo fanno gratis, me lo fanno. Dimmi dov'è questo capo che sta subito a me, perché io pagavo 50 euro per il 7.30, poi gli ho detto guarda che sono pensionato, allora abbiamo fatto 35. No, 25, l'ultima volta che sono andato ho pagato 25, ho pagato 25 euro, e la CGL su a Via Cosio, su a... da dove c'è, dove era prima, come ti si chiama? Ora normalmente mi ti si chiama, va. Via Rockefeller. Via Rockefeller, però dentro un Monserrato. Dentro un Monserrato? Ma non è di fronte. No, Monserrato sai dove? Rimane dentro, rimane. Dove c'è la strada che porta alla 131. Però rimane a parte di dentro, di fronte al supermercato. Però devi entrare dentro, nella piazza devi entrare. E dove andavo io prima? Anche quelli che sono buoni. Un anno si sono sbagliati, ho dovuto pagare 300 euro per uno sbaglio che hanno fatto loro. No, a me me l'avevano sbagliato e ce l'hanno ribagati ieri, anche io ho detto che non ribagavo nulla, la colpa è vostra, avete sbagliato voi e voi ve lo pagate. Dice non c'è problema signor Pino, non si preoccupi, e ce l'hanno ribagato ieri. No, però loro si dovrebbero pagare la multa per regola di legge, però dovrebbero pagarsi la multa se sbagliano e tu ti devi pagare lo sbaglio che hanno fatto. Ma a me non sono imbagato, sono imbagato Eddie, non ho imbagato nulla io a Eddie, ho pagato 25 euro solo il buco, a che pago, hai compreso? E non mi hanno fatto pagare nulla. Ho capito. Ma c'è anche mia grazia da lei da per i pensionati adesso, mi pare che vado via CGL. Anche, prova a vedere, secondo me me lo fai sapere, mi trasferisco che è più vicino. Infatti, solo che a trovare il parcheggio di occasione. Il suo è un problema, che se devi uscire una macchina, non so che gallugo. Oh, anche mi hanno più fare trovare il parcheggio, ma c'è, lo è. A volte facevo tutta quella via per entrare dentro, nello spiazzo, tutto quanto pieno di macchine, non mille euro, mi manca bagaglio. Molte volte io la lasciavo prima dell'entrata, la lasciavo lì, trovavo il posteggio lì vicino e la lasciavo lì. Vabbè, lì c'era anche mio cugino che lavorava, però adesso si è trasferito, l'hanno trasferito via Grazia Deledda. Chissà che quello di via Grazia Deledda non lo fosse gratis, ma poco vi credo. Gratis non penso. Ma con pugnauci di dante gratis, pure l'aria che le spiriti fanno pagare fra poco. Chi se la voglia pagare, sarà da buono. No, è contenti che Meloni ha detto non, se non basta quello che ho fatto adesso aumento la benzina, aumento le tasse, metto la tassa sul libretto, metto la tassa, mi rattendi, capito? Ma l'hanno esarrato la bocca subito, l'hanno esarrato. L'opposizione ha esarrato la bocca subito. Aiuto che ci provi a farlo. E poi vediamo cosa hanno messo a fura. Sarà guerra. Non hai visto cosa è successo in Parlamento, mentre stava parlando, che gli è scappata la scorriglia. Ora scorreggia, si è sentita nel microfono, però amplificata, e lei si è girata, si è sentita, e l'altra gli ha detto sì, dice oh, io devo andare in bagno, è andata via correndo, da cusi. C'era un minestrone, l'ha fatto male. Mi sa che anche per sé, ma che l'hanno mandato. E sicuramente una peccata a rinsogam, una peccata. Per carità. Da che siamo governati, ui, per carità. Quelli si sa che pensano solo alle persone che ai imprenditori, a gente che ha negozi, questo e quell'altro. Agli operai non ci pensa quella gente lì. La gaffa già dura il poco la destra, ma se ne sono avvisati dagli enti, specialmente i pensionati, se ne sono avvisati, già vanno via. Ma se c'è gente che addirittura su internet ancora scrive brava Meloni, continua così, eccetera eccetera, ma ce ne sono dei fascistoni in giro poi. Che se vi sono fatti sempre, vi sono fatti. Cioè, il secondo che entra è cosa, sono sempre cosa. Però non sanno che fanno mai, specialmente ai pensionati. Certo, non metto, vedete cosa da lì, che c'hanno la minima, che 4 euro. E le musse. Una biglietta in giro, io la via tutta a faccia, ma è biglietta delle caramelle. Infatti via la via tutta a faccia sì. Con me è da almeno 100 euro. Ma invece no, nulla. Certo, a me mi sono toccati 14 euro. Lasciamo perdere. Vabbè, comunque questo avvocato ha detto che chi ha l'80% di validità può avere anticipata la pensione di 5 anni prima. Deve avere almeno 20 anni di contributi, io ne aggiungo 42 a chi ne aggiungo un tardi. Pensavo 38, invece sono 42, ce li ho tutti dagli contributi. Praticamente ho fatto la domanda 2 volte, me l'hanno bocciata tutte e 2 volte. Per l'invalidità me l'hanno confermata, ma per l'anzianità no. Strano, magari noi che ti mancano 7 mesi, no? 6 mesi. No, se io ho diritto con 20 anni di contributi, ascoltandomi stai, se hai fatto 20 anni di lavoro e 20 anni di contributi, io ho il diritto alla pensione di anzianità. Io ne ho 42, grazie ad aggi superati, 20 anni. Ciao Mari. No, io praticamente avendo l'invalidità ho diritto a 5 anni prima di andare in pensione, anticipata, capito? Ho capito, è un casotto, guarda c'è come con lei, l'hanno mandato, diciamo, mandato via perché c'era 65 anni, ha preparato l'otto dicendo, da giugno. Sì. Casino, se la prendo con calma, anche l'Isee, stavo dicendo a Tore, se la prendo con calma. Io sono andato, mi dovevo arrivare, ho fatto tutto, l'ho messo, torna giovedì che io adesso lo mando e dovrebbero prepararmelo. E invece non ne hanno mandato. Se la prendo con calma, specialmente con chi ha l'invalidità, ho notato questo, che chi ha l'invalidità se la stanno prendendo con calma, qualcuno me lo manda. E invece quelli con l'invalidità deve essere stanno facendo accertamenti. è un casotto, adesso ti dico una cazzata. C'aveva la madre vedova, diciamo, un fratello malato, e prendeva l'assegno, la prendeva la madre l'assegno di questo figlio malato, era grandito. È morto il figlio a giugno, gli hanno bloccato la pensione. Quella signora è da giugno, la casa stamattina abbiamo preso la pensione, non ha ricevuto un citto. È tutto pronto, da Roma, tutto pronto, però è sempre lavorazione, è sempre lavorazione. Chissà che casino sta facendo, con calma. Non c'hanno neanche cosa di dire questa persona c'ha bisogno, non bisogno. Ah, ma non c'è il figlio a casa e sta mangiando con i soldi del figlio. E se questo figlio non aveva, doveva mangiare, ma come faceva? Un casino. Anche quando ti passa dalla pensione all'altra, so che è tarda o a passarla, un casino. Ma dovrebbe essere da quella di invalidità, dalla signora di invalidità alla pensione, dovrebbe essere una cosa automatica, quanto ha detto questo avvocato, che è automatica. Ma sono loro che la prendono con calma, già, sono loro. Io la mia è normale, la mia è pensione e anzianità, questa via non ho avuto problemi, perché io ho dato lavoro fino al 20 dicembre, avevo lavorato, poi c'erano 10 giorni di ferie, me l'ho fatto, poi dal 1 gennaio mi ero già diciamo in pensione. Io il 6 gennaio ho ricevuto la schermata nel cellulare, come è stata approvata la pensione, e l'8 c'avevo già il cellulino. Già il cellulino con la cifra non definitiva, non definitiva. E il 22 ho chiesto la pensione, il 22 gennaio stesso. E poi ogni mese, ogni primo, normale. Avanti te. Anch'io ero così. Io l'ho ricevuta il 20, quindi. A me gli avevano imbagliato non appesso. Ma per quello sono giusti. E infatti così è. Purtroppo se la giopiglieni con calma, se la giopiglieni. Perché non c'hanno personale. Ma dice che devono prendere non so quante persone a lavorare all'Inps. Ma già ne hanno personale, già ne hanno, è sempre lavorazione. Sempre lavorazione, io conoscevo un funzionario che abitava in prima università, e sempre si è. Mi mettono lì, li buttano lì senza spiegarmi le cose, si trovano male, normale. Invece dovrebbero affiancare una persona anziana che sa fare il lavoro prima di andare in pensione e gli insegni il lavoro bene. Dovrebbero assumere prima che l'altro vada in pensione, così almeno ha modo di insegnarmi come cosa deve fare. Esatto, lei mi ha detto, guarda, non le posso lì, non posso fare nulla, è tutta gente nuova, sono ragazzi, logicamente bisogna fare come stai dicendo tu, invece niente, andiamo lì, che il computer, proprio, e chi c'è bisogno non ne ha fatto nulla, aspetta, avanti tu. Ma non è così, che... Se sta qua sopra, io già sta sopra, e nel coso, se vengo in Chibia fa casino, si muovono. Ma ho visto che questo qua ha fatto casino il giorno, e domani va via la pensione. Lo so, mi ha trovato la persona brava, lo so, anche io se conosco io, e salito su, dammi un colpo per segnare. Prova. Guarda in questo passaggio, 1, 2, 3, prova. Quasi 9.30, sì. E allora già va bene, ho preso Corino, Antonello, Antonello e anche Antonio. Già va bene. Avanti tu. La stessa cosa c'è a me, quindi. Ma per la cassa è vero, Certo, sei come me, però non per la cassa, Aspetta, c'ho le cuffie, perché c'ho l'apparecchiatura, ma mi sta saldando. Adesso mi arrivi più forte di prima. Avvisato nel giro, fai forza, perché l'antenna si sta zitta appunto, e sei sciuccia. Quanti faccio stai usando? Vai, non fai da bravo, io. Sotto accetto, mai hai. Quello che mi sapeva aveva fatto la fine del checco prima di Natale, la fine del checco, mi ha rotto anche il filetto, proprio il filo a fregatura proprio spezzata, e vabbè, pazienza, là. Pazienza. Adesso ho preso questa qua, non la volevo prendere già sinceramente, non la volevo prendere, ma a sapere la vecchia, a me invece ascoltare altre frequenze, capito? A me se non c'è nessuno me ne vado su e ascolto. Avanti già. Se me lo chiedevi a me ti avrei consigliato la Lemo. È un'antenna robusta, tutta quanta in acciaio, sotto, bella, robusta, quella che ho io. Ma adesso l'hai fissata bene, gliel'hai messi tirando. Sì, dove sono messo, dove c'è aggiunto, che si è spezzato, ho tagliato il giunto, sono andato qui a perché a me c'è un padre, un amico diciamo, questo ragazzo è nato, diciamo, abitava sulla casa mia, è il giunto, il manicotto diciamo, il pezzo del filetto ci ha messo un tubo da mezzo pollice zingato e ho fatto metà e metà, infilato e saldato. E poi ci ho messo tre tiranti, non è che si muove adesso. Va. Secondo me è anche il tipo d'antenna, questa qua che ho io non si muove nulla, quando c'avevo la Game Master si bingiava come che ma piegava però. Questa qua con questo vento che ha fatto in questi giorni sono sceso giù per vederla, si muoveva per appena. Sì, ma si muove, anche l'altro si muoveva già, si dati avanti. Mi ha spezzato il filetto. Forse l'errore perché pensavo che il manicotto ha abitato con un pappagallo e saldato. È saldato. Ma sai cos'è? Con i tuoi filetti, la demolisci il tubo, capito? È stato proprio, l'ha fatto leggero leggero e l'ha spezzato. Spezzato. E adesso non penso a una spezia, ci ho messo il tubo di gatto di acqua sempre, proprio 50-50 più saldato. Adesso c'è più tiranti, non è che si muove, avanti te. Vogliono infilarti uno dentro l'altro, è l'unico modo per non rompersi. Lo so, ma mi ha fregato il manicotto, quel filetto che c'era nel tubo, perché diciamo l'ha demolito, è molto leggero, non so troppo di roba. E vabbè, pazienza, là. Mi dispiace perché l'antenna aveva fatta nuovo dentro. Quella bombina, una bella bombina, bella grossa, questa qua è sottile come bombina. E vabbè, fino a quando va questa va bene, dai. Avanti tu. Però mi ha aggiunto che l'altro ci ha messo quella multifrequenza e si è bigiata un po' con il vento. Con quel vento forte me l'ha piegata un pochettino, si è curvata sì, un po'. Però ho già aggiunto che già resiste. E sto passando la stamattina a già bella vita a tua, prego a te. Già ne riprendi la figlia e mi ha dato un messaggio a mia figlia. Il vento è così, bisogna... Io ne ho messo 9 di tirati, li ho messi doppi da ogni parte, di modo che non faccia troppo apposta, capito? Li ho messo doppio, tirati doppio da ogni parte. Ma da me, anche se 2 tiranti c'ha solo, però ho visto che l'antenna si è curvata un pochettino, l'altra che ho messo. La cosa, quella fatta in canna da pesca, è sempre dritta. Era la corretta, la saluta, anche da abbassata, che era bugiata nella punta, e qui no, non l'ha fatto nulla. Però nell'altra si è un po' curvata, sì. E tu li sei riparato, tu. Ma io dico qui, se era stata in altro palazzo qui si era abbigiata il pulissimo, perché io ce l'ho proprio oggi a mani. Lo so, no, da me il vento sopra tocca, catta, altre che se non tocca, già tocca sì, è forse il muro, quando c'è il maestrale. Esatto, già, tu già sei tutto aperto, anch'io sono aperto, fai campagna. L'antenna che ho messo supera tutto quanto, il palazzo, alberi sul fronte, supera tutto il vento, quando batte batte. Però adesso con questi tiranti, con questi tiranti dovrebbe reggere. E se ne scende, pazienza, avanti. Anche io ci ho messo i 2 tiranti, bisogna roba di decambaggio piantato l'antenna, bisogna roba di 40 anni, quelli di su Gannau, ma si faccia così no. E ho visto che già tiene. Quando va il vento, ho detto che me la deve. Oh, l'antenna chi da in canna la pasca fa un po' come la me la fa in movie, però l'altra si è un pochettino curvata, sì. È più a coso di si muove di più. Ma l'antenna o il tubo? Ma il tubo non si muove, va nuda, è l'antenna che si muove. Ma l'antenna deve flettere un po', se non flette l'antenna fa forza e ti spezza tutto. L'antenna un po' deve muovere, ma non necessariamente come fa la Game Master, che si ammassa quasi a tocca a terra. Adesso fa impressione, è venuto quello di sopra che abita, nel coso, no? Nella mansarda lì, nell'attico, è venuto, ha detto, ah, guarda che l'antenna si sta piegando, no, ma quello deve fare, l'antenna che è così, ah, ma non si spetta, non è che me ne cade dentro, no, non ti cade nulla, non ti preoccupare, invece il pindaccio me la faccia truncare. Esatto, no, invece questa si piega appena appena e basta, come la che avevo la stella, appena appena, invece la canna pesca si piegava bella bigiarda, però poi si stellava posta, era molto flessibile, molto flessibile. Cioè la canna pesca che avevo, la chimalata era già rotta, era già spezzata, diciamo. Dopo lui, io e Luca abbiamo un po', l'ho messo un sistema, ma quel vento me l'ha spezzata. Spezzata in due, diciamo che l'ha già spezzata, l'abbiamo un po' sistemata, ma con il vento che ho fatto l'ha spezzata in due proprio. Allora ti sto. Vuol dire che era fragile la tua. Gli ha segnata sicuramente e te l'ha spezzata. Ma a me ha giubito che non le fai nulla il vento. Già è forte. Avete parlato in due, e non ha giubito nulla. Gianni, soprammodulato mia, no? No, assolutamente no, non ero io e io ti ho sentito benissimo, no? Non ti ha soprammodulato nessuno, ma lì, se vai a vedere a te, io ti ho sentito benissimo a te. Voi avete udito troppo veloce, ma non anche due avete parlato, dimmi già. Ho detto che io l'ho sentito benissimo, poi sei vicino a casa tua, io a Torre l'ho sentito bene, non ha sovramodulato nessuno, non ero io. Fai splatter. Faccio splatter, Mari. Andiamo in preso. Ah, signor Marino è caggiuto. Mario, ti sei fatto, Mario? Tu da là va, avanti già. Non sento nel 25 a Marino io. No, io c'ho 9.20, quasi 9.30, là. Mario? Vuol dire... Ora su Garahari. Ora ho chiamato il telefono. Andare. Torre. Sicuramente ha il telefono. No, è sul canale 25, si è spostato, ha spostato la frequenza, aspetta. Ecco qua. Questo passaggio. Cazzo, è più strano, lo sento nel 25, non cambio se ne dipendeva. Là ho detto, ho toccato il 100 MHz che si tocca, no? per andare nel canale di accente, ma non era possibile. Ci sentivo le 25, cazzo. Quando sto guardando il cellulare, mi ha chiamato mia figlia, poi si è appoggiato il gomito e ho toccato il volto, capito? Tutto qui avanti e sì. È sempre il pulsante di sì. Certo, non so come io. Non ti devi appoggiare a nessun posto. Che mi l'ha detto? Mi sono appena appoggiato, vai, mi sono appena appoggiato, ho toccato appena, non mi sono accorto adesso, pensavo che c'è un momento molto grande lì. Visto lei cosa hai fatto, ed eri una sogganari ieri, certo, andiamo con Cristo, vabbè. E quello ti senti molto con un'emozione, ma dove sono andati? Ci stavo parlando assieme e non capivo nulla, però non ho guardato il momento, capito? Non ho guardato il momento, per quello, vabbè. Succede ai vivi, avanti già. Sì, ma non è successo nulla. Io a volte, per dire, vado in FM e poi mi dimentico di rispostare la M e sento tutti strani. Ma ragazzi, ma che sono tutti strani così? Poi guardo bene in FM, capito? E succede. Succede ai vivi, purtroppo. Buonasera, avanti Torre Squalo. Sì, anche io che sono andati, non mi può succedere più nulla che sono freddi. Ecco cosa è, diventano freddi e tutti. Vabbè, ascolta tu, ma sei già uscito a voltare, sì. Oh, verso 9:30, 9:20, 9:15, 9:30 devo uscire. Ah, anche lì c'è l'orario, vabbè. Anche lì c'è l'orario, quello di Giallo c'è l'orario, e quello del museo, la figlia del cane corso, c'è l'orario. Quello lì si mette vicino alla porta e si mette a piangere. Allora, prima porta si esce, si fa il giro della campagna, poi, e poi ribussa con la zampa, vuole entrare, c'è freddo. Ah, ecco, partito da solo, non ci devi andare. Come? Già, scusa. Ho detto tutto da solo qua, ma non è pericoloso che si attacca ad altri cani o roba del genere? Non mi sono accorto. Non mi sono accorto, ho girato. No, sto parlando del cane. Ho detto, non è pericoloso che magari si morsichi con altri cani andando da solo o cose così. No, rimane in casa, qua è stato recintato, là. E tu dove sei entrato, capito? Il cancello è chiuso. Si fa il giretto sul territorio e poi rimane vicino alla porta, capito? Anche la mattina sto giorno fuori, cari fuori, sempre coperto. E se no guai, è la guardia che lo fa. E non fa la visione di nessuno, non c'è una mosca a entrare. E poi il cane corso è monossuide, lo so perché anche io monossuide, so come sono. Il mio guarda, non abbaia, si avvicina alla porta e comincia, se sente qualcuno che non è di casa. E guai se apre la porta, è un incannato, Stato c'ha un coso di sentire, quando arriva mia figlia fa il giro molte volte, passa la Marina, mia figlia, no? Lui quando lui è già vicino alla porta, sente già c'è il rumore, già qualcosa che sta arrivando la padrona, capito? No, già il cane, guarda, se non ti combatti, ti fa entrare. Il cane ti fa entrare tranquillo, sereno, solo ti rimane appresso. Ti rimane appresso, ho capito, ormai vicino a te, se non sgarri qualcosa, se non c'è qualcuno guai. Se non c'è nessuno ti fa bere la dentiera, se c'è qualcuno io o mio nipote o mia figlia rimane fermo, tranquillo e sereno, capito? Nonno, è molto bravo come cane, molto bravo. Certo, se con l'occhio ti fa bere la dentiera, anche da poco c'è i carabinieri per una cosa che è successo qua vicino e io entro dentro, nulla a fare, non è entrato un carabiniere, e guarda lì dove la dentiera pura. Sono così i cani, sono molto territoriali, poi specialmente i monossuidi sono cani da guardia, sono cani che territoriali, non ti va a dire di là. Esatto, poi adesso ormai è già grande, non fa più le gare, poi faceva le gare era sempre fuori, ormai non gare nulla, zero. Ma rimane qui tranquillo e sereno, la mattina esce fuori, un altro giorno fuori, già di palazzo, quando fa le cose si fa il suo pezzo e dopo rimane sotto il portico. Già sta bene, ma poi la notte da Madrid logicamente c'ha il suo cuscino, tranquillo e sereno e non rompe le scatole nessuno. Tipo con il toro c'è l'orario, quello a toro, posa fuori la mattina e la notte, avanti tu. Sì, la mattina, a pranzo, il pomeriggio e la notte. 4 volte a radice lo porto fuori. Purtroppo il cane è così. Se ce l'hai lo dice, stare bene. Questo qua mangia 2 volte al giorno, mangia la mattina e la notte per esempio. Quindi logicamente se c'è qualcosa per me, mia moglie ha un po' di cane e cavallo. La pizza mangia al bordo senza sugo, perché mia figlia è fissata, mi deve andare a rubare un cane, se c'è qualcosa particolare sta male, perché sta male. E lui è tranquillo e sereno, capito? Io ho i gatti in giro e mettevo prima il piattino sopra il bordo del marciapiede, come si chiama? Vabbè. Sul muretto, lasciamo il piattino, ce la faceva. Quando io non andavo, lui la zampa buttava a terra il piattino e si mangiava la roba dei gatti. Che poi la roba dei gatti, roba mangiamo noi, diciamo, sviluppiamo le cocchette, però se avanza qualcosa, li mettiamo fuori e loro mangiano. Se lo mangiano i gatti, si mangiano i gorracci, un peso. E adesso già un periodo lo sto mettendo in alto è incazzato, mi guarda di lato, è una cosa pazzesca. Avanti già. Oh, sai cosa ho visto? Mi sono messo in mezzo io, perché c'era un gatto che stava mangiando, c'era una signora che in cortile gli mette sempre il piattino con la roba da mangiare. Dei burracci l'hanno attaccato, lo stavano beccando, il gatto che gli soffiava e le cornacchie andavano a beccarlo, gli ha beccato, gli ci ha messo se la cornacchia sopra la testa e li beccava il muso. E sono andato io, ci la giubbanda a Dio, i burracci, ce l'hanno vinta di pure a me, cos'è gatto giommato? Insomma, le lettere, guarda, c'è i nuovi in campagna non sono bene. Se lo tentano, se i gatti non mangiano, già risolvete che pigliano giusto. Beh, una volta allora stava ancora, era ancora in servizio, avevo trovato una tartaruga, e l'ho scesa qua giù, ho chiuso, che non c'è letto giù, l'appartamento che c'ho sotto, diciamo, là, si è interrato. E ho chiuso il cancelletto. Beh, tu lo sai, quando sono arrivato l'ora di pranzo non c'era più. Dopo un paio di giorni l'ho trovato vuota. Il guscio buttato dietro, sempre in campagna mia, vuota. Si era investigata, presa, l'ha vista vicino, che l'hanno presa, l'ha vista di volo e si erano portati a dire. Poi mi hanno buttato il guscio in campagna, capito? Avanti tu. Oh, tutti si mangiano, non ti me ne nudano. Ho compreso che anche le tartarughe se ne mangiano. Ecco cos'è. Infatti io che non ripeto, non vedo lucani, le bicicli. Ha detto, sai che non ve la fai a pigliarli. Ah, fagli invece una pizzicatona, ha un mollato una pizzicatona. Ah, vedi se la cotammossi, che rende, ha detto, mangia di la maglia. Oh, Marì, già ti do ragione, perché un giorno il principale mi ha detto, già sali sul terrazzo del negozio, perché non stanno andando bene i condizionatori, ci devono essere i piccioni che magari hanno fatto bisogni del coso e stanno intasando lo sfogo dell'aria, dai. E sono salito su e lo sai cosa c'erano? Tutte le casette delle tartarughe vuote e le ossa dei piccioni, e c'era anche un piccione senza gli occhi e tutto sbudellato, che quello sicuramente era fresco, l'avevo mangiato da poco. Non me lo posso immaginare, è un animale schifoso, ma tu lo sai, io in piccina ce l'ho storico, lo trovavo a pezzi, senza testa, senza occhi, i gorracci sono i gorracci, ma ne beccavo ogni giorno ne beccavo sempre qualcun piccione, dietro a Parco Cari, dietro di Tana, in via Vico Marino, via. È un animale schifoso, maledetto, tutti, avanti te. Si mi accostava un raro muro, si ricorda, stava perseguitando il gabbiano e si accostava un muro, non è farata, secca, un cane è andato in chivi, ha musicata, l'ha tirato lungo, l'ha tirato, dice, te sai che Filippo hai fatto. poverina. Vabbè, che la prossima volta non lo fa più. La buon'anima di Graziano mi aveva raccontato che la moglie ha fatto in tempo e tempo per entrarci dentro il portone, perché gli stavano rubando la spesa, aveva la spesa in mano, le erano le attacchetti e vogliamo curare il pizzo. Stai giudizio, sono maledetti, guarda, già, quando stavo lavorando, facevo il servizio la domenica, giù all'emiciclo, ci sono i cestini, tu lo vedi il casino che faceva il gabbiano, mi svuotava il cestino, tutto in terra, un casino, uno sono andato, bello pulito, faccio un'altra zona, ripasso, era peggio di prima, ma il gabbiano è peggio della borraccia, è peggio della borraccia, una volta faccio Piazza del Sello, non c'è la banca, faccio buco tutto nella strada, tanto Paoletto porta i mucchi, passa la spadatrice, se non passa la colgo io, bello sistemato, mi sposto, dopo mezz'ora donna peggio di prima, ovvia, mi facciamo incazzare, un incazzamento dopo il lavoro, avanti tu. E sembra che non hai fatto nulla. Facevi, quando le ricevi scappavano, a fuggire. No, c'era qualcuno che si avvicinava a coraggio per beccarti, capito? Questo è il gabbiano. Avanti tu. Sì, sono maledetti qui. C'è il gabbiano che curracci sono proprio disgraziati. Cioè, povero un signore, era salito, l'hanno inseguito, c'è una altra sotto al portico. Ha gettato i nomi, non ventri sotto i nomi. E vedi, ha inseguito il gare, ha inseguito, dice curracci. Ci ha fatto il visto. E ma sai cosa fanno? Li si mettono sulla testa e il cane non ce la fa di beccare il muso, come ha fatto col gatto, fa col cane. Li beccano il muso e te lo fanno in sangue. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti, se mi sentite, cappa. Ti sentiamo forte e chiaro, avanti. Non ho capito chi sei, comunque. Buonasera, dai. Gianni Doppio Ruolo in compagnia di Marino e di Tore Squalo. Chi dovrei essere secondo te? Luca, mi. Ma non conosce nessuno. Buonasera Luca. Oh Luca, scusami, non ti avevo riconosciuto. Davvero non conosce nessuno. E adesso era un po' che non lo sentivo, va. Luca, buonasera, ben alzato. Ma Luca è scappato, mangia il latte. Ha dato il suo benestare, ora bisogna andare da acqua di un mosso. Luca! Vabbè, signor Marino, signor Gianni, signor Luca, io vi devo lasciare, mangio dei bigliamini e bastigli. A risentirci alle prossime. Ci risentiamo, buonasera a tutti quanti. Ciao e anche agli ascoltoni, di sicurare ci manni e manni. Ok, ciao Otto, ben sentito, è stata una signora. A domani se concili, avanti già. Ciao Ottore, ciao. Buona impasticata. Buona serata, dai. Buon proseguimento. Ci sentiamo, ciao ciao, alla prossima. Luca! Ma Luca è entrato, salutato, si è andato. Forse Magnoni, avanti già. Non l'avevo riconosciuto, forse ha cambiato apparecchio, non lo so. Forse aveva microfono normale, io Luca lo sento sempre con l'amplificato, quindi normalmente lo sentivo così forte, capito? Adesso non è che non sia forte, però era normale il microfono. Anch'io sto già, adesso ho le cuffie, ho la parecchia della rete, cazzo, ma molte volte mi fa casino, non mi fa capire le parole, non stai attento. Bene, io pensavo di Antonello, veramente, Antonello Pompugno, invece la Luca. Ma io non l'ho riconosciuto davvero, non è che stavo scherzando, non l'ho riconosciuto. Vabbè, voglia, ma di che la. Adesso si è sistemato, davanti alla telebuccia, speriamo che è intelligente, perché è fatto una spesa, ma non si sa se sia una spesa ben fatta, se non entra in sciù. Esatto, via. Oh, c'è freddo fuori, qui c'è freddo. Temperatura, voi avete il riscaldamento, c'è la stufa per te già. No, io c'ho il riscaldamento. C'ho il riscaldamento condominiale. E vabbè, come c'è la mia storia, la tenga te là. Fate anche il Bruno. Sì. Cambiamo tutti i riscaldamenti. No, già scalda qua. Si sente una diversità di temperatura quando vieni da fuori col cane e quando entri dentro casa. Quando sei dentro te ne rendi conto. Ma grande scivura, uia! Non la posso leggere, no, io mi lascio l'ho accesa alle 5 il pellet, non stai da poc'anzi, a me mi basta un paio d'ore a casa, basta, no, mia figlia ce n'è di più. Io sono il tetto di legno, è tutto bello tamponato, è tutto bello, basta un paio d'ore. E poi rimango in magliettina a casa. Invece mia figlia ce n'è qualche ora in più, però si sta bene lo stesso. Solo che quando esci fuori ti bisogna subito. Ah, ma tua figlia non abita con te, ha la casa a parte. Appartamento di sotto, diciamo che sono tre appartamenti, diciamo dove abitava mia figlia, abitavo io, poi lui si va a sposare, allora mi è terminato il piano di sotto, sono rimasto 3 anni sotto, mi è diciamo, è un appartamento, l'altezza è sempre 2,70 diciamo, dopo dovevo fare il tetto, anziché fare il tetto mi ho fatto l'altro appartamento di sopra, diciamo, alzando là, il punto più basso sono io, ci sono in piedi, io sono quasi 1,70, il punto più basso. E c'è un salone grande, bagno, canaletto, cucina e qui c'è il terrazzo. capito? E mi usa sopra mia figlia di tutto, eh? Vabbè, almeno state vicina, vi aiutate l'uno con l'altro, potete... Ma si entra dallo stesso cancello, quindi se è stato nello stesso corso, sì. No, pensavo che fossero case separate, che uno abitasse da una parte, uno dall'altra, pensavo che abitasse con te veramente. Però qui ho pensato che fossero case separate. Ma è l'unica palazzina, entriamo allo stesso cancello. Lui entra di fronte, io cioè io da, a fianco, sulle scale passo a fianco, là, sugli appartamenti, tre appartamenti separati sono. Tre appartamenti separati, giù ho lasciato dove sono io adesso un appartamento, diciamo, dai, non ho toccato nulla, il suo l'avevo preso tutto nuovo, il mobiliato tutto nuovo, capito? Qua giù, diciamo, per il Natale ci sono poco, c'è la festa con gli amici, le amiche e così via, lo usiamo anche noi, diciamo, dai, però c'è tutto, cucina, bagno, ti bagno, c'è dall'alzetto, manca un appartamento. Ma di là ti devo lasciare, che te sei venuto a chiamarmi, vorrei scendere giù, e già ora hai ragione, dai, è proprio mica bene. Ok, tranquillo, già, a domani se coincide, mi ha fatto piacere, dai, ciao. Ciao Mari, ciao, grazie per il consiglio, ci sentiamo. Ciao a tutti, dai, buonanotte, io domani mi devo alzare presto. Ciao Marino, ciao Gianni, ciao Ottore, ciao. Ciao Luca, ciao. Entra più spesso, sennò poi non ti riconosco. Ehi, già, sta invecchiando. Ciao. No, non è quello, davvero, non ti stavo riconoscendo, Forse è perché avevi stavi parlando tranquillo, non lo so, perché di solito sei tutto sparato. Non lo so perché, Vabbè, dai, ci sentiamo, buona serata, ciao. Sì, buona serata, io vado a dormire tra un po', ciao, domani. Io entro domani, entro al 10, ora vado al 10 poco fa, ciao. E io ho girato, non c'era nessuno, e allora ho girato qua. Chiappa, ciao. Ciao Luca, ciao, domani, ciao.